Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da maggio a luglio del 1861. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura e in questa edizione speciale i primi passi del neonato Regno d'Italia, che ha però perso uno dei suoi attori politici fondamentali. Il conte di Cavour è morto all'inizio di giugno, la mattina del 6, dopo l'estremunzione e la confessione. Poco prima delle 7, due deboli rantoli e il conte è spirato. L'evento ha scosso tutta l'Italia. Sembrava una delle periodiche febbri che lo affliggevano con lievi indisposizioni da circa 15 anni, forse per la malaria contratta, si pensa, tra le risaie della sua tenuta di Leri, perfetta per efficienza agricola ma insalubre. Sembrava, nella giornata del 29 maggio, dopo una lunga e turbolenta discussione alla Camera, una febbre da stanchezza. E invece Cavour è peggiorato giorno dopo giorno, proprio mentre tutti lo attendevano alla celebrazione, il 2 giugno, della prima festa dell'Unità Nazionale, istituita qualche tempo prima dal neonato governo italiano. La malattia, nonostante i tanti salassi, non era regredita. Il chinino, consigliato dai medici, Cavour non è riuscito a prenderlo. Lo ha vomitato quando non lo ha rifiutato. Il conte ha voluto confessarsi per morire da buon cristiano. È stato anche visitato da re Vittorio Emanuele. Poi la morte. Il funerale, imponente e commosso, sotto la pioggia ha fotografato un paese attonito che si è risvegliato nelle mani del barone di ferro, il toscano Bettino Ricasoli, cui il re ha affidato la difficile eredità di Cavour. I problemi da affrontare sono enormi. L'Austria, costretta a ritirare le truppe verso l'Ungheria, fa un po' meno paura, ma il riconoscimento della Francia è costato la conferma delle truppe di Parigi a difesa di Roma e del Papa, mentre la Spagna non intende riconoscere il governo dei Savoia sulla penisola. E poi c'è la questione dei conti. Il debito pubblico consolidato è enorme, 2,4 miliardi di lire, di cui 1,3 del solo Regno di Sardegna. In più il bilancio è in negativo e mancano soldi per le tante necessità, dal piano per le ferrovie all'esercito. Infine, nel sud crescono le rivolte alimentate dai Borboni in esilio. Al rigoroso ma cordiale conte Ponza di San Martino come governatore delle province meridionali è succeduto il duro generale Cialdini. Obiettivo la pacificazione, che però molti leggono come repressione. Forse aveva ragione Massimo D'Azeglio. Fatta l'Italia e comunque senza Venezia e Roma, fare gli italiani sarà un'altra impresa, ben più difficile. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. In chiusura una notizia che doveva rimanere segreta, ma che il Gazzettino è riuscito ad apprendere. La massoneria italiana ha organizzato a Torino un agape, ossia una riunione nazionale, un banchetto per celebrare il solstizio d'estate. A quanto pare vi hanno partecipato i massoni torinesi e i più importanti dignitari italiani. Si chiude così il Gazzettino del Risorgimento, almeno in questa versione. Da lunedì in onda il meglio delle nostre puntate, anche se con qualche salto cronologico che sappiamo che saprete perdonare. Torniamo a settembre alla stessa ora con un nuovo formato. Anche questa edizione è stata curata da Paolo Piacenza e Simone Spezia, che l'ha condotta. Una buona giornata.